l'altra Europa. L'Europa raccontata alla radio dalle radio d'Europa. Questo è Euronet, questo è il network radiofonico di cui anche noi facciamo parte con l'altra Europa. Un buongiorno da Federico Taddia, eccoci qua in diretta dagli studi di Milano per raccontarvi la cultura, il costume, l'attualità del nostro continente, ma da un nostro punto di vista. Anche oggi faremo questo bel viaggio. Le coordinate, se volete intervenire in diretta, via sms al 349-238-6666, le vostre email all'altraeuropa@radio24.it e soprattutto il nostro profilo in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, che aggiorniamo in diretta per segnarvi link e le varie notizie di cui appunto andiamo a parlare. Si parte quindi e lo facciamo in un modo strano, in un modo curioso, perché l'Europa può nascere anche grazie a una palla ovale. Questo è un inno, è l'inno dell'Albania, inno che forse ben presto sentiremo suonare anche sui campi da rugby. È una bella storia quella che abbiamo scoperto, la storia di una nazionale, appunto la nazionale di rugby albanese, che non esiste ma che si sta creando, e questa nazionale, questa strana convocazione è avvenuta e sta avvenendo tramite Facebook, tramite i social network. Per capire bene questa storia abbiamo uno dei protagonisti, lui è uno dei fondatori di questa nazionale virtuale che ancora non c'è, anche se almeno una volta in un'amichevole già scesa in campo. 21 anni, gioca a Venezia, è un rugbista nato in Albania, si chiama Sevian Daupi e lo salutiamo. Ciao Sevian. Buongiorno, grazie mille. Grazie a te. Allora, tu sei un rugbista professionista? Sì, da 3 stagioni. Uh-huh. Che ruolo giochi e dove giochi? Gioco Mediano di Mischia al Venezia Mestre. Uh-huh. E com'è nata l'idea di tentare di mettere insieme una nazionale? Sì, praticamente circa due anni fa ho fatto un'intervista per un giornale di rugby. Sì. E mi hanno chiesto quale sarebbe il tuo desiderio. Io ho risposto sarebbe quello di fondare rugby in Albania. E da qua il giornalista si è molto interessato a questa idea. E da là piano piano abbiamo cominciato un po' questo progetto, ma è nato così, perché io non ero intenzionato a farlo così presto. Allora, insomma, perché non avevo molte possibilità, capito? Ho capito. Cioè, il primo ostacolo, credo, è quello di trovare almeno 15 persone in grado di giocare a rugby. Sì, diciamo anche un po' di più. Ma sì, E ci siete? Cioè, ci sono almeno 15 rugbisti albanesi? Sì. E dove giocano? Tutti in Italia? Sì, giocano tutti in Italia. Giocano. Abbiamo scoperto che giocano tutti in Italia. Io, a dire la verità, non conoscevo nessuno. Credevo che ce n'erano 2 o 3, ma poi quando abbiamo incontrato altri, abbiamo trovato almeno 27 giocatori, siamo riusciti a trovarli. È fantastico. E questo... Ovviamente dall'under 18 alla Serie B, alla Serie A, tutti quanti, capito? Certo. E questa sorta di convocazione è avvenuta tramite internet, tramite la rete? Sì, grazie al social network Facebook siamo riusciti a contattare abbastanza giocatori. Quindi avete una pagina che possiamo segnalare? Sì, c'è una pagina che si chiama www.rugbyshiptar.it. Rugby, scusa? Rugby Shqiptar. Perfetto, ok, la andiamo a segnare subito nella nostra pagina in Facebook. E, avete già fatto un esordio, avete già fatto una prima partita, vero? Abbiamo giocato il 10 giugno, sì, contro i Doji, che sarebbe una selezione veneta. E com'è andata? Abbiamo perso perché era la prima volta che giocavamo insieme. Poi oggi sono una squadra abbastanza forte, uh-huh, in tradizione. Leggevo un commento, credo proprio del giornalista che ti ha intervistato e dalla quale, grazie al quale è nata l'idea della nazionale, che comunque gli albanesi, cioè, siete portati per il rugby. Qual è la caratteristica vincente? Qual è la cosa che vi ha fatto? Dimmi. Penso all'aggressività, dai. Sì. Siamo un po' aggressivi, un po' teste dure. Ok, questo aiuta, aiuta sul campo. Tu sei assolutamente integrato ormai, perché da tanti anni che sei in Italia. Da 13 anni qua. Uh-huh. E è facile vivere in Italia da albanese? Ma all'inizio ho avuto un po' di difficoltà, normale, come tutti quanti, però dopo un po' penso che mi hanno sono trattato come se fosse un italiano, quindi non... Ok. Io personalmente non ho avuto problemi. Ok. E sul campo da rugby, che comunque è uno sport nobile, almeno da quello che si legge, da quello che si vede anche, no? Diciamo che è l'unico sport dove al terzo tempo, dove insomma ci si picchia, tra virgolette, in campo, però poi si festeggia insieme. Lì sei un albanese in campo o sei comunque un italiano? Sei uno della squadra, come tutti gli altri? Là sono un giocatore di rugby. Ok. Quindi ancora una volta. Penso che il rugby sia stato la parte più importante per avere una vita sociale, perché mi ha aiutato molto. Ok, quindi lo sport, in questo caso il rugby, proprio come canale di integrazione. Sì, sì. Sevian, grazie davvero per averci testimoniato la vostra storia, però ci dovete tenere aggiornati, cioè vogliamo sapere come evolve questa cosa, se ci sono dei passi fondamentali, delle partite, ce lo devi assolutamente segnalare, va bene? Certamente, io ringrazio voi per questa breve chiacchierata, sono molto contento, vi ringrazio tantissimo. Dai, è l'Europa, è anche questa, ci piace raccontarla. Ciao e buon sabato, grazie a te, ciao. I rugbisti albanesi, la nazionale che sta nascendo in Italia, adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Una community europea. Si chiama Bubble Web ed è un portale internet aperto a tutti che contiene al suo interno 10 community tematiche. Dai racconti di viaggio ai film preferiti, dalle ricette alla poesia, tanti spazi diversi per confrontarsi esprimendosi in lingue diverse. Ogni comunità ha infatti un'interfaccia in 3 lingue, francese, italiano e spagnolo, ma ognuno può pubblicare contributi o lasciare commenti anche nelle altre lingue romanze, come il romeno, portoghese o il catalano. Il sito è babel-web.eu. È stata un po' la settimana di Wikileaks, di questo sito che ha sconvolto, ma chissà, vedremo quelle che saranno le reali conseguenze. Insomma, la forza della rete, la forza dirompente della rete che può anche cambiare quelli che sono gli equilibri a livello mondiale. Noi ci fermiamo nel nostro piccolo all'Europa e ci piace raccontarvi l'altra rete, quanto la rete, quanto internet possa influire anche lei in una nuova cultura europea. E abbiamo il nostro appuntamento mensile con Christian Hesser, olandese, ideatore di Mr. Harder, che è un'agenzia che studia le nuove tendenze, le strategie per i media online, e come ogni mese gli chiediamo di viaggiare per noi nella rete alla scoperta di nuovi avvenimenti, di nuove tendenze. Ciao Christian, benvenuto all'Altra Europa. Sì, ciao Federico, buongiorno. Come stai? Benissimo. Ma io ho sentito appena adesso, ti interrompo subito, perché ho sentito di questa iniziativa del rugby in Albania, fantastico. In Inghilterra sì? c'è una squadra di calcio che il 75% della squadra è in possesso dei loro fan, dei loro supporters. Ah, quindi si sono venduti ai tifosi? Sì, nel senso bello del termine. Sì, ma tutte le decisioni a riguardo di cosa fanno vengono prese dai tifosi. Fantastico, e anche lì la rete aiuta, immagino, perché faranno grosse riunioni virtuali attraverso i social network. Ma sì, addirittura il comprare un giocatore viene deciso da 7.000 persone in tempo reale. Fantastico, un fantacalcio reale, questa è un po' la... Sì, l'idea. Una buona idea per l'Italia, ma non si sa mai. Christian, a proposito di buone idee, andiamo a vedere quello che hai trovato questa settimana, dove so che insomma vuoi un po' introdurci in un filone che ci porta al discorso della trasparenza, come i social network possono aiutare anche a unificare, nel senso bello del termine, i pensieri, le idee, i ragionamenti. Sì, rimaniamo in Inghilterra. Un po' di tempo fa c'è stata una rivolta degli studenti in Inghilterra riguardo delle riforme degli studi. Certo, cosa bella è vedere che tutte queste rivolte sono state anche filmate, sono state messe su YouTube, e questa trasparenza fa in modo che dopo la rivolta c'è anche tutta la discussione a riguardo dei pro, dei contro, delle azioni che si sono viste sui filmati, se sono giuste o non giuste. Questo discorso, questa riflessione, è una riflessione interessante perché non è a caldo durante la rivolta, ma è una riflessione che nel tempo dà tempo alla persona di pensare un attimo. E la cosa interessante è anche vedere nei filmati come le forze dell'ordine reagiscono al fatto che vengono filmati continuamente. Ma questa trasparenza porta delle sfumature nuove, è una cosa interessante. E rimanendo nell'educazione, perché è da lì che voglio andare avanti, in Inghilterra c'è una scuola, si chiama The London School of Business and Finance, ed è una scuola che offre degli studi MBA. Ma il bello della loro iniziativa, hanno investito più di 7 milioni per fare questa cosa, offrono tutti i corsi, tutti gli studi li offrono online su Facebook. Ah, quindi una scuola ad altissimo livello, però appunto tramite Facebook. Esatto. E puoi seguirli, ma puoi seguirli anche gratis, solo quando fai gli esami devi pagare. Fantastico. Ci vuoi dare il link che poi troveremo e pubblicheremo anche sulla nostra pagina di Facebook? Sì, guarda, i link te li do con molto piacere, ma non in trasmissione perché sono troppo lunghi. Li mettiamo sulla pagina e lì tutti trovano esattamente come cosa. Perfetto, sia in Facebook sia sul nostro sito metteremo sicuramente questo link. Sempre in campo educativo, dove ci porti ancora? Sì, ancora una persona che è un mio eroe, Sir Ken Robinson. È un inglese anche lui, sì. Ha dei fantastici lecture su TED.com e lui è proprio la persona che si impegna al 100% in questo modo per effettivare questa rivolta dell'educazione. Se guardiamo bene il modello dell'educazione, è un modello vecchio, un modello basato ancora sul fast food, nel senso bisogna standardizzare tutto per far sì che tutti riescono ad imparare quello che devono imparare, ma Sir Ken Robinson dice no, bisogna guardare al talento delle persone, è molto più impegnativo, è molto più difficile, però cercando il talento delle persone si riuscirà a avere in futuro un mondo in cui la gente va a lavorare con piacere. Chiedi alla gente se lavorano con piacere, 80% della gente dice ma guarda lavoro, poi il weekend mi diverto. Quindi bisogna cambiare questa cosa perché cambia il mondo in quel modo. Lui dice che il talento è una materia prima delle persone e come tutte le materie prime bisogna scavare molto per trovarle, però quando le trovi vai avanti. www.ted.com e ho visto anche che insomma anche il suo modello di insegnamento è particolare, di fatto è uno showman prestato all'educazione, quindi è molto divertente anche da vedere. Grazie davvero Christian, come sempre, per averci dato un assaggio di quello che succede in Europa e nell'altra rete, diciamo. E www.mrharder.com è il tuo sito, che è un po' il punto di riferimento del tuo lavoro e ci piace ricordarlo. Ciao Christian, al mese prossimo allora. Sì, ci sentiamo mese prossimo. Buona giornata. Ciao, buon sabato a te. Ciao, ciao. Europost-it. La Germania come la vediamo noi? Il Goethe-Institut ha lanciato un sondaggio online per scoprire che immagine hanno della Germania gli altri europei. Cosa piace di questo paese e cosa non convince? Bastano pochi minuti per rispondere al questionario. Tra tutti coloro che parteciperanno saranno sorteggiati alcuni fortunati che vinceranno un weekend a Berlino per due persone, un corso di tedesco e una borsa di studio al Goethe-Institut. Per partecipare basta andare sul sito goethe.de/vabene. Questi sono i nostri Europost-it, consigli dritte su tutto ciò che si trova e che si può fare in Europa. L'altra Europa è radio24.it, se anche voi volete segnalarci qualche evento particolare. Parlavamo del Goethe Institute e rimaniamo con loro per raccontare un'iniziativa molto bella che si sta concludendo in questi giorni, quindi volevamo fare un po' il sunto di quanto è accaduto. Si chiama Cambio d'aria, scambio di redazione, perché la nuova cultura europea passa attraverso gli scambi, attraverso delle immersioni totali in un'altra cultura, e l'idea di questo cambio d'aria è una sorta di scambio di ruolo tra giornalisti italiani che hanno la possibilità di vivere per un medio periodo in Germania e viceversa. Il protagonista della storia si chiama Andrea Plebe, un giornalista del secolo XIX in trasferta a Norimberga, dove appunto sta avendo la possibilità di vivere all'interno di un importante redazione e di respirare quindi dal di dentro la cultura europea, la cultura tedesca, e raccontare giorno per giorno attraverso un blog. Qua con noi, ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie, benvenuti anche a chi gli ascoltatori che mi ascoltano. Allora facci capire subito, ti sei fatto vacanza o hai lavorato? Dunque, no, ho lavorato, nel senso che ho cercato un po' di capire com'è questa città e di raccontarla. sia attraverso il blog del Goethe, sia attraverso qualche articolo, sia per il mio quotidiano Il Secolo XIX, sia per il Nürnberger Nachrichten, che mi ospita e che mi hanno appunto invitato a fare qualche servizio per loro, e quindi mi sono messo in campo anche per loro, insomma, per fare qualcosa per loro. In particolare c'è stata una presentazione del mercato dei paesi stranieri, qui c'è questo grande mercato di Natale e ospitano anche un mercato di città partner, e diciamo io ho partecipato a questo evento, a questa presentazione, ho scritto per loro e per loro ho fatto anche, diciamo, l'apertura del mercato di Natale, che ha questa particolare cerimonia con l'angelo di Natale, il Christkindl, che apre questo momento importante, e diciamo mi hanno un po' sfruttato per avere un occhio diverso su questo evento, che ovviamente per loro si ripete tutti gli anni, per me era il primo, e quindi diciamo è stato magari per loro anche interessante vederlo con gli occhi di uno straniero, insomma. Fantastico. Insomma, hai fatto una sorta di Erasmus. Quanti giorni, da quant'è che sei lì? Io sono qui dal 9 di novembre, questo periodo dura fino al 9 di dicembre, quindi sono ormai gli ultimi giorni. Ed è stata sicuramente un'esperienza interessante. Io tra l'altro purtroppo non sono così padrone della lingua come il mio collega Arno Stoffels, che è venuto in Italia a settembre, quindi per me insomma è stato un po' più difficile, però devo dire che lo scarso tedesco, un po' di inglese e comunque anche l'italiano, che qua si parla, insomma, ho trovato tante persone che comunque sono in grado di in qualche modo esprimersi, a partire dal sindaco, che conosce benissimo l'italiano e che mi ha piacevolmente sorpreso. Diciamo c'è comunque una certa passione per l'Italia, no? Certo. Insomma, dalla cucina in giù. Ma quindi a Norimberga tanta Italia, ma anche tanta Europa? Sì, tanta Europa, nel senso che è tanto mondo, nel senso che questa è una città di 500.000 abitanti, in cui un terzo non è tedesco, insomma, proviene da altre esperienze, da altre culture, quindi diciamo c'è anche un lavoro di integrazione importante che stanno facendo. Io ho partecipato in questo periodo a una piccola cerimonia che si è tenuta appunto in municipio, dove sono stati accolti con una piccola festa questi nuovi cittadini tedeschi, sono circa 1.600 che quest'anno sono diventati appunto cittadini tedeschi, acquisendo quindi tutti i diritti e anche tutti i doveri. Certo. E con abitanti, diciamo, provenienti dall'Ucraina ai primi posti, noi italiani insomma eravamo un po' in coda, ma ormai la presenza italiana qui è storica, quindi diciamo certo. Il fenomeno è più dei paesi dell'est. Insomma, Vi consiglio davvero di leggere il blog, a parte che insomma sei un'ottima penna, quindi sono letture assolutamente piacevoli, e poi si respira veramente questa cultura tedesca. Blog.goethe.de, da lì ci sono tutti i vari link per arrivare alle pagine di Andrea, anche queste linkate già nella nostra pagina in Facebook. Però Andrea, mi piacerebbe capire da te, a parte ho visto un bellissimo pezzo, il caso Cassano è arrivato anche a Norimberga. I colleghi mi avevano segnalato appunto un'agenzia tedesca che aveva ripreso un articolo pubblicato appunto sul Secolo XIX, nel quale si parlava delle vicende del giocatore della Samp e del suo litigio con il presidente Garrone, quindi insomma è stato un po' un circolo della stampa, nel senso che noi abbiamo loro hanno raccontato noi che abbiamo raccontato loro, insomma è andato un po' così, però tanto per dire che qualche cosa gli interessava anche di queste vicende. Certo. No, volevo capire però da te, insomma, in questa settimana, soprattutto prima citavamo WikiLeaks, che insomma tutti i rapporti internazionali sono un po' stati messi nel frullatore, ma non solo, la situazione politica italiana credo che all'estero sia sotto osservazione. Da lì cosa hai percepito? Che che Italia, che Europa, che mondo stanno raccontando i quotidiani tedeschi ai loro lettori? Guarda, io credo che l'Italia, ad esempio, sia per loro comunque un notevole mistero, nel senso che mi avevano anche chiesto e l'ho scritto un pezzo sulla situazione politica italiana, gli ho detto, ho spiegato che non è proprio il mio campo, ma sì, che sarebbe stato abbastanza complicato, e per loro resta comunque un po' una nebulosa anche per, diciamo, i comportamenti, le espressioni dei nostri politici. Non, sinceramente credo che per loro sia un mondo piuttosto distante, che non riescono minimamente a percepire la distanza tra quella che noi magari chiamiamo una dichiarazione, che poi diventa una provocazione, che per loro, insomma, magari avrebbe un altro significato, no? Certo. Per noi invece, bah, magari dopo, il giorno dopo ce la siamo anche dimenticata. Sì, insomma, sì, no? Sì. Sì, certo, poi WikiLeaks ha avuto, beh, come un po' dappertutto, direi, non è, insomma, grande. Questa Merkel raccontata come donna poco creativa ha fatto scalpore lì o no? No, direi, okay. Credi, no, almeno per quello che ho potuto vedere io, insomma, credo che fossero cose che, ad esempio, insomma, quando sono uscite queste, diciamo, appunti sul ministro Westerwelle, il ministro degli esteri, che doveva ancora imparare a fare il ministro, insomma, ho colto tra i colleghi una, come dire, un senso di, bah, insomma, sono cose che sapevamo. Ho capito, ok, quindi nulla di nuovo. Ognuno ha un po' i suoi propri punti, poi magari da un altro giornale forse avrebbero pensato diversamente, non lo so, insomma, sì, sì. Non erano stupiti particolarmente di questi, magari, di questi, insomma, sono cose che si dicono, ecco. Non ho questa esperienza profonda da poterlo affermare anch'io, questo è quanto. Va bene, Andrea, grazie davvero per averci raccontato questa esperienza che si sta concludendo. Grazie, vi saluto dai miei meno 5 gradi, non so come stia da voi, ma no, insomma, sì, non è un inverno abbastanza duretto, sì. Non c'è il sole a Milano, però stiamo leggermente meglio, un pochino meglio, sì, assolutamente. Ricordiamo allora che abbiamo già pubblicato il link del blog di Andrea sulle nostre pagine in Facebook, dove potete appunto seguire i suoi racconti. Parliamo di clima, non so se la foto che c'è oggi in prima pagina su tanti quotidiani possa essere emblematica di quello che sta accadendo alla nostra terra, ed è un sub che nuota in Piazza San Marco. Ok, a Venezia l'acqua alta non è una novità, l'acqua così alta forse siede un po' un emblema di questi cambiamenti climatici che stiamo vivendo sulla nostra pelle giorno per giorno, e di cambiamenti climatici e non solo se ne sta parlando in questi giorni a Cancun, dove in parte anche, ahimè, nell'indifferenza generale non si trova molto di quello, non si legge molto di quello che sta accadendo a Cancun sui media. Si sta tenendo dal 29 novembre fino al 10 dicembre la 16ª conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, un appuntamento fondamentale ed è anche un po' il tema centrale di Euronet di questa settimana. Ogni radio, ogni nazione tratterà a proprio modo l'argomento, voci diverse ma con un obiettivo comune, e anche noi vogliamo dare il nostro contributo per capire cos'è Cancun, ma al di là dell'aspetto istituzionale. Abbiamo invitato il direttore generale della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile del Clima e dell'Energia del Ministero dell'Ambiente, in partenza tra l'altro nei prossimi giorni per Cancun. Diamo il benvenuto al dottor Corrado Clini. Buongiorno Clini. Buongiorno. Buongiorno, grazie. So che è appena atterrato, credo, di ritorno dalla Cina, quindi... Sì, eravamo a Pechino a parlare di climate change. Ecco, quindi insomma, e quando parte per Cancun? Dopo domani. Ok, ma questa sensazione di indifferenza è reale o è, insomma, manca la notizia e quindi se ne parla poco, perché ormai siamo quasi abituati a essere terrorizzati rispetto al clima, e quindi come ogni volta si fa poca educazione e le cose passano e non si presta abbastanza attenzione. Ma direi che al lupo, come lei sa, porta male alla fine. Allora, abbiamo avuto la conferenza di Copenaghen con un grandissimo battage, si è stata creata una grossa attesa su quella conferenza, la conferenza è fallita perché era sbagliato attendersi molto, perché i problemi sul tappeto sono molti, sono complessi, non si risolvono con una conferenza, è soprattutto non si risolvono soltanto parlando di clima, perché riguardano energia, riguardano le regole del commercio internazionale, l'equilibrio tra i paesi emergenti, le economie emergenti che crescono vertiginosamente, le economie europee e americane che invece sono in difficoltà. E dunque è una partita molto complessa che richiederà molto tempo. Purtroppo forse ne abbiamo perso molto immaginando che bastava sottoscrivere un accordo, come è stato con il protocollo di Kyoto, che è stato un buon esercizio ma che in effetti non funziona. Ma quindi lei parte con uno spirito di sano realismo, che non è né pessimismo né ottimismo, mi pare di capire. Guardi, io sono abituato a considerare i fatti. I fatti glieli posso raccontare in due minuti, certo. Anzi meno. Per raggiungere un obiettivo compatibile con la protezione dell'equilibrio climatico, secondo il rapporto del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici che raccoglie gli esperti di più di 150 paesi, le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare di anidride carbonica, che è prodotta dall'uso dei combustibili fossili, perciò dal carbone, dal gas, dall'olio, sì, dalla benzina, eccetera, queste emissioni dovrebbero raggiungere il picco massimo entro il 2020 e poi cominciare a scendere in maniera molto rapida, il che vorrebbe dire che noi dovremmo cominciare adesso a fare politiche per ridurre l'uso dei combustibili fossili. E la prima delle politiche che dovrebbe essere fatta è quella di cominciare a cancellare le migliaia di miliardi di investimenti che sono in atto, per esempio per l'estrazione di olio e di gas o per la costruzione di pipelines. Come lei può vedere, questi investimenti sono ben in corso, anzi sono uno dei punti di riferimento delle politiche economiche mondiali, perciò questa è una prima contraddizione tra gli obiettivi per la protezione del clima e le politiche reali in campo energetico che si stanno sviluppando. La seconda cosa che si dovrebbe fare è riuscire a creare le condizioni per cui le economie nelle quali si consuma di più, che sono l'economia della Cina, dell'India, del Brasile, dell'Indonesia, del Sudafrica, cioè quelle che escono dal sottosviluppo, queste economie possano essere rapidamente infrastrutturate con tecnologie energetiche e con fonti alternative ai combustibili fossili, in modo che la loro domanda di energia, che giustamente cresce perché loro devono recuperare il gap di sottosviluppo, invece di essere sostenuta dai combustibili tradizionali sia sostenuta da fonti alternative, il che vorrebbe dire spostare su questi paesi gran parte degli investimenti, sì, in innovazione, in sviluppo di tecnologie eccetera. In parte sta avvenendo, ma sta avvenendo non perché noi stiamo spostando gli investimenti per esempio in Cina piuttosto che in Brasile o in Indonesia, ma perché questi paesi attraverso la loro crescita stanno cominciando a orientare gli investimenti. Pensi che l'anno scorso la Cina ha investito 40 miliardi di dollari nello sviluppo di tecnologie pulite nel settore energetico, più del doppio degli Stati Uniti, che invece hanno investito 14 milioni di dollari e quasi il triplo di quello che ha investito l'Unione Europea. Perciò c'è questo elemento positivo che si muove, che è la corsa verso le tecnologie innovative da parte delle economie emergenti. Anche il Brasile sta diventando un'economia molto virtuosa e loro lo fanno soprattutto per liberarsi dal vincolo del petrolio. E dall'altra parte però la struttura importante dell'economia energetica è ancora basata sui combustibili fossili, lo sarà per molti decenni, perché quando si fanno, come si sta facendo, esplorazioni nel Golfo del Messico piuttosto che in Artico per estrarre olio, oppure nel Mediterraneo, oppure sì, fanno pipeline per aumentare la disponibilità di gas naturale, è chiaro che questi investimenti non durano 10 anni, sono destinati a durare per molti anni. Sono percorsi appunto contraddittori. Dottor Clini, mi dica un qualcosa con cui vorrebbe tornare a casa da questa conferenza, un obiettivo, un piccolo sogno che lei cova, insomma, vorrebbe tornare da Cancun con... Un'agenda dei lavori, sì, per i prossimi anni, a cominciare dal 2012, anno nel quale celebreremo il ventennale della conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, un'agenda che finalmente abbia in ordine del giorno, per così dire, la combinazione delle politiche per la protezione del clima con quelle per lo sviluppo delle tecnologie innovative per far fronte alla crescente domanda di energia, domanda che continuerà a crescere perché il gap dell'India, della Cina, del Brasile, dell'Indonesia è così grande che è sicuro che la loro domanda di energia continuerà a crescere molte, molte volte e nessuno può chiedere di fermarsi perché loro devono salvare il pianeta, perché ovviamente questo sarebbe inaccettabile, sarebbe la premessa di una guerra. Ecco. Quindi insomma un'agenda reale con una visione organica di quello che... Esattamente, ci piacerebbe molto. Speriamo. Grazie Clint, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo, insomma, perché non sia solo una gita quella a Cancun. Grazie, buona giornata a lei. Partiamo da Cancun per arrivare in Europa e capire qual è lo stato attuale della situazione del nostro continente. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha fatto uno studio e pare che le cose, un po' di sano ottimismo anche, apparentemente qualcosa sta migliorando. Per capire lo studio che è stato fatto e quali sono stati i risultati raggiunti, abbiamo invitato il capo della cooperazione internazionale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Diamo il benvenuto a David Starner. Ciao David, buongiorno. Buongiorno, grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Davide, intanto l'Agenzia per l'Ambiente che cos'è e di cosa vi occupate? Allora sì, la nostra agenzia europea è quell'agenzia che ha il necessità di fare i rapporti dell'ambiente ogni 5 anni. E il nostro ruolo in confronto quello della Commissione e del Parlamento, noi abbiamo il ruolo di portare avanti l'informazione giusto, obiettivo sull'ambiente. Allora, questo rapporto che l'abbiamo appena pubblicato è il rapporto pubblicato ogni 5 anni, si tratta di un'analisi completa del stato delle tendenze dell'ambiente europeo. Quindi una fotografia fondamentale per capire dal punto di vista tecnico anche come stanno le cose. Ci puoi fare veramente un riassunto e dirci quelli che sono gli elementi salienti che avete ottenuto col vostro studio? Ma in primo luogo dici che i risultati dicono che le politiche ambientali funzionano. Ci sono tanti diversi risultati che abbiamo preso dei livelli di ogni paese europeo, anche a livello europeo, sì. Che dice che la politica ambientale funziona, come l'inquinamento d'acqua, l'inquinamento dell'aria, eccetera, eccetera. Ma il problema è che fino a questo momento va bene, ma c'è un certo limite e fino adesso dobbiamo cercare di fare più con meno, più come il cibo, l'energia, eccetera, eccetera, con meno risorse naturali. Altrimenti non è sostenibile continuare a utilizzare i risorse naturali nel livello che abbiamo fino adesso. La crisi quindi ha dato una mano all'ambiente? La crisi ha dato una mano all'ambiente? Non credo che sia un dato una mano. C'è forse una diminuzione in qualche anno dell'inquinamento o dell'utilizzo dell'energia, ma a lungo termine diciamo che si parla di una economia verde. Sì, certo. È un'economia verde che è basata sull'ambiente e forse è una soluzione di queste nostre crisi. La green economy appunto come soluzione per appunto rinforzare l'economia ma nello stesso tempo con un occhio all'ambiente. Davide, un'ultima domanda. Parte della ricerca è assolutamente completamente dedicata ai cambiamenti climatici. Ci sono, l'Europa sta cambiando faccia da questo punto di vista? Sì, abbiamo fatto tanti progressi della riduzione dell'emissione in Europa per le gas serra, per esempio. Sì. Si può vedere chiaramente che siamo arrivati fino al 18%, 17% di riduzione tra 2009 fino a 1990 fino al 2009. Allora, più o meno il 20% che abbiamo bisogno sotto il Kyoto protocollo. Ma nonostante tutti questi progressi, l'Europa avrà bisogno di adattarsi all'impatto della climatica in corso, perché ci sono le mitigazioni che dobbiamo tenere, come qualcuno si parla, ma anche in più dobbiamo focare sulla necessità di adattare agli impatti della climatica in corso. Davide, grazie davvero, complimenti anche per il tuo italiano, che so che avevi, avevi qualche preoccupazione, ma e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, perché ci piace l'argomento e insomma dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, credo che tu ci possa veramente dire e dare cose importanti. Ciao e buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Ciao. Ciao ciao. Li avete riconosciuti, Sono gli ABBA, era il 1974 e questo gruppo svedese si presenta, si fa conoscere al grande pubblico come vincendo l'Eurofestival, manifestazione storica a livello europeo. Beh, c'è una notizia che è uscita ieri perché pare, attenzione, che dopo 13 anni, gli ultimi sono stati Jalis, l'Italia tornerà a partecipare, perché è 13 anni che manca e noi abbiamo convocato l'esperto, perché in Italia esiste un esperto di Eurofestival, è un esperto di musica in generale, partendo dal Festival di Sanremo in poi, ma in tutti questi anni è stato l'unico italiano a seguire l'Eurofestival, era l'unico italiano, l'unico giornalista accreditato, tanto che nel giro è stato soprannominato Mr. Italy. Diamo il benvenuto a Daddy Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici di Radio 24. Siamo contenti perché in effetti è arrivata qualche notizia, c'era già nell'aria, la notizia che l'Italia si è iscritta, anzi si è preiscritta all'edizione 2011 dell'Eurofestival, il concorso Eurovisione della canzone. Saremo quindi a Düsseldorf dal 10 al 14 maggio, poi tutti i dettagli sono ancora in divenire. Chissà chi sarà. Perché scusa, una nazione si iscrive e poi si fanno le primarie anche lì per decidere chi parteciperà, come funziona? No, c'è questa preiscrizione e poi dopo bisogna confermarla entro il giorno di Natale o il 26 dicembre. Chi dovesse ritirarsi dopo quella data paga pegno. Ho capito, ma e quale sarà il, cioè, chi abbiamo convocato noi, quale sarà il cantante italiano che parteciperà all'Eurofestival, si sa già? Nulla si sa, ci sono solamente rumori, voci di corridoio. Il più accreditato parla della vincitrice di X Factor, nata di Gianni Trapani. Ho capito, però tutto potrebbe ancora essere, diciamo che c'è tempo ufficialmente fino al 15 marzo per annunciare poi la canzone e il cantante, che comunque possono essere già, la canzone può essere già edita, può essere circolante, basta che sia stata fatta dopo il primo settembre di quest'anno. Insomma, l'Europa da cantare, sentiamo un po', questa è quella che ha vinto lo scorso anno, vero? Esatto, Lena con Satellite. Ecco, ti cambia la vita vincere l'Eurofestival? Può cambiare la vita, Lena è stata al primo posto in tutta Europa, tranne che appunto in Italia, perché in Italia ha raggiunto per un giorno la posizione numero 17, trattandosi di un concorso ignorato dai nostri media, è un grandissimo successo. Quindi insomma, si respira veramente questa cultura europea e la si respira da anni, credo che sia questa la vera forza di questa manifestazione. Da osservatore, dal di dentro, che cos'è? Una festa prevalentemente, una festa delle nazioni? È un incrocio tra una festa, una convention delle Nazioni Unite e un campionato europeo di calcio, mettiamo, o un'Olimpiade. Ci sono questi tre elementi perché, cioè, da un lato c'è una comunità di attori, artisti, giornalisti, fan che segue proprio le due settimane. E poi c'è anche un aspetto di networking, perché grazie a questo programma di intrattenimento i responsabili dell'intrattenimento delle maggiori televisioni pubbliche europee hanno modo poi dopo di sedersi, incontrarsi in un ambiente più rilassato e magari anche fare l'occasione per fare nuovi progetti. Eddie, ti abbiamo assunto, sarai il nostro inviato al prossimo Eurofestival, quindi tienti libero, non firmare altri contratti, ok? Appuntamento per Düsseldorf dal 10 al 14 maggio, prossime avventure, ma le prove cominceranno addirittura il 30 aprile, io sarò lì. Grande, ciao ciao ciao. Il sito sulla nostra pagina di Facebook, tutti i link relativi alla puntata. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli e a Margherita Ina che con me hanno scritto la puntata e a Peter Bescapè alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao!